Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Io e voi dobbiamo parlare. Perché la prossima volta che mi trovo sotto un video o sotto una foto o sotto qualcosa, un commento che chiede: ma Lele, dov'è Lele? Cos'è successo con Lele? Io impazzirò. Quindi ne parlo adesso per la prima e ultima volta e basta. Sì, io e Daniele non siamo più insieme, però molti di voi pensano che sia tipo da una settimana. No, non è da una settimana, è da molto di più. Se non ve l'abbiamo detto prima, appunto, è solo perché avevamo bisogno di privacy, perché Daniele stesso mi aveva chiesto: aspetta prima di parlarne su YouTube. Io ho assolutamente rispettato la cosa, perché anche a me sembrava la cosa giusta da fare. Però di fatto dopo un po' lui ha cominciato a scrivere dei post su Instagram in cui si capiva perfettamente che qualcosa era andato storto, e che ovviamente mi ha dato fastidio, perché lui mi aveva chiesto di non parlarne e poi è stato lui il primo a tirare fuori l'argomento con gli altri, e in questo modo lui faceva i post tristi e io ignoravo la cosa, facevo finta di niente, diciamo, e in questo modo sembrava che io fossi la cattiva e che lui stesse soffrendo mentre io vivevo la mia vita tranquilla. Non è stato così, ci sono stata parecchio avete male. Avete sentito la premessa che ho fatto con la collega dentro il giornale radio? Oggi dedico il venerdì alle donne. Voi direte: sì, facile la parte tua, no, fai il gigione, il lumacone, il provolone. No, semplicemente, visto che molte ascoltatrici mi dicono: non fai mai argomenti che interessino a noi donne. Bah, ho fatto quello che nella mia rozzezza e limitatezza di maschio arcaico posso pensare più vicino alla sensibilità femminile. Oggi vi faccio parlare delle vostre storie amorose. Voi direte: beh sì, che vuoi fare? La posta del cuore? No, no, oggi semplicemente mi pongo una domanda. Una domanda può avere del provocatorio, senz'altro, può essere intesa come una domanda piena di pregiudizio, ma la domanda è: ma perché voi donne continuate a fare sempre gli stessi discorsi sull'amore che fate da almeno 300 anni, o perlomeno da quando il mondo vi ha dato finalmente possibilità e libertà di totale espressione, senza dovervi mascherare sotto le metafore, sotto la poesia, sotto le allucinazioni mistiche? Insomma, potete parlare tranquillamente e parlate d'amore nella stessa maniera. Vi innamorate, vi fate storie, vi fate film, immaginate che gli uomini vadano cambiati, immaginate che gli uomini debbano essere sempre questi modelli che rispondono comunque alle vostre aspettative. Più rimanete delusi dagli uomini, più vi attaccate agli uomini. Avete sentito? Questa è una ragazza giovane su YouTube, racconta una elucubrazione complicatissima rispetto a una storia d'amore, quando sarebbe molto più semplice: ma t'ha accannato, t'ha mollato, t'ha lasciato, in comunque non gli interessi più. No, c'è sempre una spiegazione dietro, c'è sempre un motivo, c'è sempre un'immaturità, non aver capito il senso. Ma guardate che scrittrici hanno fatto la loro fortuna su questo, sul pippamentalismo femminile riguardo alle storie d'amore. Perché non ha capito quest'uomo che in realtà egli mi ama? E su questo fiumi di parole. Beh, oggi questa è la trasmissione dedicata alle donne. Oggi voglio che liberamente parliate, mi dipaniate questo nodo, mi date possibilità di capire, o perlomeno fate capire veramente agli uomini quello che vorreste da loro nel campo, appunto, dell'attenzione amorosa. Cioè, io pian piano ogni mattina mi svegliavo e mi davo forza da sola per essere riuscita a reagire in quel modo, perché comunque mi sono anche ritrovata con la casa da gestire completamente da sola, ed è una cosa a cui non ero assolutamente più abituata. Quest'altra persona che non c'era nella mia vita, anche se avrei voluto che ci fosse, e è stato veramente un periodo tragico, soprattutto tra novembre e gennaio di quest'anno, anche il momento di Natale. Ahimè, inutile che ve lo ribadisca, quelli di voi che hanno più esperienza vita lo sanno: l'uomo è basico, l'uomo elementare, l'uomo è anche estremamente rozzo. Diciamo che ha una polarità molto semplice, molto banalmente basilare, antitetica. O non gliene importa assolutamente nulla, allora può avere un atteggiamento superficiale, un atteggiamento fintamente interessato, perché strumentalmente compiace la donna. Gli uomini marpioni compiacciono le donne, le riempiono di complimenti, gli fanno credere di essere interessate, però alla fine, una volta ottenuto il possesso della donna, poi se ne disfanno. Quelli patologici, quelli che dicono di credere all'amore, si accorgono di essere innamorati soltanto quando la donna li accanna, e quelli sono i più terribili, diventano dei vermiciattoli striscianti, diventano, si fanno fanno suola delle vostre scarpe, nella migliore delle ipotesi, quando si mortificano, perché nelle ipotesi peggiori diventano violenti, aggressivi, esercitano il loro possesso in tutte maniere. Cioè, l'uomo innamorato, deluso, è una cosa patetica, non si può vedere. Tutti noi ci siamo passati nel corso della nostra vita, figuriamoci chi ne è immune. Però sono cose che solo a pensarci uno si vergogna e sbatterebbe la testa sul muro. Proprio è totalmente lontano la nostra natura. E invece per voi donne ancora c'è sempre questa eterna illusione, questo compiacersi, La La Land, bello, una storia d'amore fantastica, ma ha quasi beccato un Oscar, un film che è la summa, la quintessenza di tutto il pippamentalismo amoroso che può ancora limitare dalla sua emancipazione totale il genere femminile. 800 24 00 24, io ho parlato anche troppo, oggi è la vostra trasmissione, fatemi sentire la vostra voce. Melog, cronache meridiane. Io che cosa ho fatto? Sono andata dal 3 al 7 in Calabria, appunto, da lui. Sapete ovviamente di chi si parla. Il primo giorno, e giuro su mio nipote, su mio padre, su chi vi pare, non sono stata cagata di striscio. E già da lì ho detto, ma tu non vedi la tua fidanzata da quasi un mese, come minimo mi devi stare appiccicato, no? E invece niente. Al che cosa ho fatto? Vedendo che appunto io non ero proprio filata, ho iniziato a confidarmi con delle mie amiche su Facebook, insomma su WhatsApp, le più fidate, dicendo insomma, ma non mi sta vicino, non vengo calcolata, mi fa stare male questa cosa, no? Non capisco perché. Il fatto è che questa situazione continua non solo il 3, ma il 4, il 5, il 6 e il 7. Praticamente tutta la adesso settimana... Già ho ricevuto due reprimende, l'una dal professor Rocchetti e professor Intonti. Da come hai cominciato non chiameranno male le donne, figurati. No, è giusto che uno esponga la sua limitatezza congenita. Vorrei che le donne invece facessero sentire la loro voce. Poi l'ascoltatore dice: sei davvero un pervertito, la domenica solo donne, argomenti maschili mai, schiavo femminista. Ecco, schiavo femminista, l'ho detto una volta, voglio dare spazio agli argomenti delle donne, mi sembra di trattare argomenti molto maschili, e lo vedo dalla risposta del pubblico. Oggi vorrei, se possibile, lasciare libero accesso all'immaginario femminile. Ma perché? Perché sono curioso. Per farlo io già avevo un nasso nella manica, cioè avevo tenuto una riserva, sapendo che all'800 24 00 24 ci sarà molta titubanza nel rispondere, nel farsi sentire, anche per attaccarmi, per dire ma cos'è questa tesi retrograda, piena di pregiudizio nei confronti della nostra sensibilità femminile, di riuscire a vedere l'amore come la grande panacea, il farmaco dell'umanità. Ecco, chiama subito un uomo, Michele. Vorrei donne oggi, non uomini. Michele, cosa deve dirmi? Sì, pronto. No, è una donna lei? No, perché chiama? No, per fortuna sono un uomo. Per fortuna perché? Perché considera una sfortuna essere donna? No, a volte dico per fortuna, perché io credo che le donne, che per me, diciamo, l'opinione che ho della donna, che è sempre quell'essere, diciamo, sai, quello più sentimentale, più che crede più nell'amore, nei sentimenti, più sensibile. Sì. Quindi la donna la reputo praticamente donna, ecco. Cioè, vabbè, l'uomo magari è un po' più grezzo. Un po' più uomo. Un po' più uomo. Quindi nel beh, detta questa cosa, qual è il senso della sua domanda? Ecco, il senso è questo. Cioè, secondo me la donna ha sempre una speranza, secondo me, che l'amore sia corrisposto. Se io ho capito bene praticamente... La donna si illude, cioè quindi la donna spera che l'amore sia corrisposto e vive costruendosi questo rapporto basato sull'eterna speranza di essere corrisposta per quella che è la sua natura, natura sentimentale, tenera, vorrebbe le coccole, vorrebbe l'amore, essere amata, gli occhi con i cuoricini, i micini che arrivano la mattina, tutte queste cose vorrebbe la donna, e tutti gli hanno, no, non è vero, dove l'hai letto. In realtà l'uomo queste cose per un po' può anche starcele, può anche simulare, o perlomeno se ne fa portavoce soltanto quando viene accannato. Allora l'uomo deluso improvvisamente è pronto a fare qualsiasi cosa, a scendere in qualsiasi bassezza, farsi scendiletto di qualsiasi donna pur di riaverla. Dicevo, il mio asso nella manica si chiama Giovanna. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Lei ha una grossa responsabilità questa mattina, deve aiutarmi a capire meglio questo senso profondamente femminile di credere nell'amore e questa disillusione continua. Tutte le volte una donna investe nell'amore, in realtà trova sempre un uomo o che la prende in giro o che la illude o che è insensibile e non capisce quanto lei sta mettendo in gioco. Raccontiamo la sua storia. Allora, io vengo a conoscenza di un funzionario per necessità, visto che ho un figlio che è stato messo in esubero e ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a esplicare le pratiche inerenti a questa situazione. Difendeva il lavoro di suo figlio. Quanti anni ha suo figlio? Mio figlio ha 49 anni, era messo in esubero perché la ditta non aveva più lavoro, era rimasto a casa. Quindi a 50 anni è giusto che la mamma gli dia una mano se può? Sì. Anche perché è un estroverso, un introverso, logicamente le mamme si preoccupano. E giustamente, finché c'è la mamma uno ha sempre una sicurezza. Ecco. Allora, contatto questo funzionario, che si mostra gentilissimo, bravissimo nel suo lavoro, ci aiuta a risolvere il problema e mi rappresento sempre con mio figlio alla presenza di questo funzionario. E tutto va bene, vedo che è gentilissimo, si presta, è bravo. E intanto mio figlio così trova un collocamento. A questo punto vado dal funzionario da sola per le ultime pratiche, per le ultime carte, e questo funzionario comincia a farmi complimenti: ah, che belli occhi che hai, che, tutto così. Dopo alla fine mi dice: ah, visto che ci conosciamo da un pochino, mi può dare un bacino prima di uscire? Cioè un ricatto sessuale le proponeva? Ho detto, le do un bacino, anche perché vedevo che era una persona che, almeno mi sembrava una persona che si dedicava al suo lavoro con passione. Cioè un bacino di tenerezza, così come si dà a un amico. Io non lo conoscevo. No, dicevo il bacino, vediamo la qualità del bacino. Un bacino... Il bacino, allora, da prima è stato sulle guance e poi lui è passato sulla bocca. Cioè la brancicata praticamente ha provato a baciarla. Punto, io sento scattare in me qualcosa, essendo vedova. Cioè sulla bocca, scusi, sulla bocca con lingua, cioè un bacio vero? Sì, un bacio vero. Infilando la lingua fra le labbra, cioè un bacio. Sì, certo. Quindi non era un bacino di amicizia? No, subito era stato un bacino di amicizia. Poi, visto che sentivo qualcosa nella sua pelle che mi attirava, è continuato. E così è iniziata una relazione, diciamo, amorosa. Ma no, scusa, è una bella storia. In fondo lui ha un pochino calcato la mano, ma essendo lei vedova... Io sapevo che lui era divorziato, senza libero da impegni. Io purtroppo vedova da 4-5 anni. Quindi libera anche lei, comunque libera anche lei da questo punto di vista. Come? Libera anche lei, potevate... Sì, tutti e due liberi. Quindi che c'è di male? In fondo... Ecco, allora iniziamo una relazione. Diciamo che ha un po' forzato la sua titubanza, perché lei era un po' reticente, ma quando ha sentito il bacio le è scattata la molla e ha detto va bene. Sì, insomma mi ha regalato un po' di vita e mi sono sentita un po' rivivere, un po' rinascere. Vabbè, è nata una passione. E questo è bello. Ecco, è nata questa passione, credevo io. E così abbiamo iniziato una relazione. Ho avvisato i miei figli. Ho detto la mamma ha un fidanzato? Sì, ho detto guarda che ho trovato un'amicizia. Uno di questi miei figli lavora sul campo dell'autismo, è 20 anni che si occupa di autismo. L'altro è a casa e ha bisogno di che la mamma lo segua perché è un po' introverso. Quello di 50 anni? Quello del mio, tutti e due hanno la stessa età perché sono nati. Allora, ferma un attimo, Gianna, prenda respiro. Riassumo velocemente, do voce a due ascoltatrici così facciamo un po' di dibattito. Giovanna è una bella storia, una donna con i figli già grandi, sistemati e tutto, crea un'occasione di lavoro al figlio, il funzionario, che solamente nella tutta la fanta letteratura impiegatizia ci prova solo con le ragazze, le dà un bacio appassionato d'amore e scatta l'amore. Una cosa bellissima, entrambi liberi, una divorziata, lui divorziato, lei vedova, avverte i figli e comincia la storia d'amore. Si fermi lì, Giovanna. Elisabetta. Buongiorno. L'ascolto. Buongiorno. Nicoletti, quello che volevo dire è che sicuramente ha ragione sul fatto che le donne si fanno sempre una marea di ditte mentali e parlano, analizzano e fanno. Diciamo che però meglio questo che le scorciatoie che invece da tanti maschi vengono prese al primo problema d'amore, o te strangolano o ti accoltellano. Sì, questa, quindi, ma insomma, ho già detto, questo fa parte di una patologia perversa e orribile. Però di fatto è una incapacità di affrontare anche il dolore che magari una donna esprime a parole. Ma, guarda, io ammetterei proprio un atteggiamento vessatorio e patologico dell'uomo che non ammette la sconfitta amorosa. Sì, non ammette la sconfitta amorosa, e la sua reazione è di gran lunga più distruttiva. Vabbè, questo abbiamo detto, però questa è la punta estrema. Stiamo nel centro, nella media. Grazie a Dio non tutti gli uomini sono dei femminicidi, no, o degli assassini. Tutti gli uomini non sono così, però probabilmente non hanno il bisogno di autocurarsi come fanno le donne. Ma può essere semplicemente parlandone con tutti, parlandone troppo, rompendo troppo le palle. Può essere anche che gli uomini siano un po' meno interessati a tutto questo aspetto sentimentale. Una volta stanno bene con una persona, ci stanno, c'è bisogno ogni minuto di riavere la prova. Sì, sì, le modalità di espressione sono sicuramente diverse. Ferma lì, Elisabetta, ferma, abbiamo capito. Mirella. Abbassi la radio, sì. Sì, l'ho abbassata. Allora, quello che dico farà infuriare tutte le donne, però scusate donne, mi avete rotto la passera, scusatemi. Vabbè, ognuno sa far rompere da chi preferisce. Ma che cosa mi si vuol dire questa cosa che gli uomini ci ammazzano? È vero, ma le donne che si mettono con questi uomini sanno già con chi si mettono. Allora, donne, strutturiamoci, amiamoci più profondamente, non addebitiamo tutto al maschio. Il maschio è quello che è. Ma detto questo discorso, diciamo questa premessa teorica portata sul piano pratico, cosa dovete fare? Sul piano pratico significa che poi rimani da sola, nel senso, rimanere da solo, da soli è tremendo in questa, perché, e allora la donna piuttosto che rimanere da sola è lì che si aggrappa al maschio, e allora io ti devo cambiare. Tu non devi cambiare nessuno, cambia te stessa e tutte le cose andranno in maniera diversa. E lei cosa ha fatto? Lei ha visto che, diciamo, questo modo di pensare le ha rotto la passera, come ha detto lei. Scusi Nicoletti, non lo dovevo dire. Mi no, perché? Perché scusi, noi diciamo continuamente mi hai rotto i coglioni ogni tanto. Certo, io non ce l'ho, che cosa devo dire? Si fa rompere quello che c'ha, è chiaro. Ma questo è logico, sta. Però diciamo, il termine è interessante, ma è rivolto alle donne. Qual è? Certo che è rivolto alle donne. Nicoletti, mi hanno rotto la... Veramente, io sono stufa di questa situazione. Noi, io ti devo cambiare, e poi tu non sei così come io ti ho conosciuto. L'uomo è così. Ferma lì, Elisabetta, mi serve come spalla. Resti in linea, perché devo dare adesso, devo cedere un attimo la linea alle informazioni intermedie, fra una parte e l'altra di Melo. Però lei resti, perché una donna che dice all'altra donna mi avete rotto la passera è un partner importante in questa discussione tra donne. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Melog. Cronache meridiane. Lascia andare foto, lascia andare regali, lascia andare i messaggi. Questa è sicuramente una delle cose più difficili da fare, ma è sicuramente impossibile dimenticarsi qualcuno se tiene sul suo comodino l'orsacchiotto che ti ha regalato San Valentino, il mazzo di rose che ti ha regalato al vostro secondo anniversario. Appesa da sopra la tua scrivania c'è la vostra foto insieme, la vostra foto anche sullo schermo del cellulare. È assolutamente impossibile dimenticarsi di quella persona così e stare meglio. Quindi, elimina tutto definitivamente, se proprio non riesci a eliminarli. Poi sono i tutorial che sono su YouTube, c'è uno psicanalista, psicologo, consulente, maestro di vita, non so, uno scienziato dalla testa calva, divertentissimo, c'ha decine e decine di tutorial, come lasciare un uomo, come farsi lasciare da un uomo, come non piangere se un uomo ti lascia, e come farti, bellissimo, e io so che è la Bibbia parlante un'infinità di amiche mie, appena hanno una fluttuazione amorosa subito guardano quello, è divertente, se me lo trova in tonte è fantastico, è bellissimo, sembra un po' il Duce colpo d'occhio, e dà dei consigli bellissimi, dettagliati, come si lascia una persona, come non si soffre, e donne di questo hanno hanno bisogno. Vi leggo qualche sms. Il solito amico di cui ieri abbiamo fatto un quadro psichiatrico insieme al professor Mastronardi mi dice: si sente donna, lo dica, così si chiarisce con se stesso. Faremo anche questo tipo di indagine. La cosa più bella per una donna è quando un uomo, anche per pochi secondi, si nasconde dietro al suo sorriso, pochi attimi di vita ma linfa per continuare a sognare. Noi donne siamo così, conosciamo la realtà, ma se non ci nutriamo di questa illusione non potremmo vivere. Vabbè, di illusioni ci si nutre. Poi andando avanti, se sente donna lo dica, sente donna lo dica, cioè, è tutta colpa sua e della sua ex collega Barbara Alberti, avete sdoganato la troiaggine delle vecchie balorde. Ma scusatemi, la satiriasi chimica dei vecchi balordi è già bella che sdoganata, sono i vecchi balordi che si sentono ancora gagliardi perché si impasticcano. Le donne non più in età giovanissima che ancora parlano d'amore sono una speranza per l'umanità. Poi non vi leggo altri messaggi perché sono tutti a base di donne che cercano negri per saziarsi, cioè, esiste una paura terrificante nell'universo maschile più retrogrado e più arretrato. Vede, questo capisco, lo spettro dell'immigrazione, che vengano uomini fisicamente e geneticamente più gagliardi che ti portino via le donne, una cosa antichissima. Sentiamo un po', io continuiamo con la storia di Giovanna, che ci eravamo interrotti con Giovanna, una signora che finalmente trova l'amore della sua vita anche una grande passione. La passione va avanti, come continua la sua storia, Giovanna? Continuiamo a vederci periodicamente, una volta, due alla settimana. Lui mi promette di portarmi alle Canarie, di portarmi fuori a cena, però ogni tanto mi accenna a un problema che dovrà avere fra poco. Lui è pluridivorziato, con figli da... Quindi deve mantenere già due o tre famiglie. Sì, ecco. È un problema. No, una figlia particolarmente. Comunque, io mi innamoro un pochino di lui, mi affeziono. Diciamo, nasce come una storia passionale, carnale, di puro sesso, ma poi viene fuori anche l'amore. Però, vabbè. Sì e no? Sì, sì e no. Perché fisicamente proprio non aveva dei metodi un po' bruschi, no? Comunque non mi si diceva molto, ma però, cioè non era molto efficiente da un punto di vista amoroso. Era efficiente anche troppo. Comunque, cioè una bestia montava come un animale e finiva così. Brava. Vabbè, basta, le cose sono. Viveva la mia dignità. Certo, comunque, una bestia arrivava lì tutto sbalante, le montava sopra, si sfogava e poi finiva così. Sì, vabbè. A un certo punto lui una notte mi chiama alle 4 del mattino. Piangendo, disperato, che bisogno. Ha ricevuto una raccomandata dall'ufficio d'Equitalia, se non paga una certa cifra entro un po' di giorni, gli pignorano i mobili. Solo tu puoi salvarmi, e tutto disperato. Batteva cassa. Com'è? Batteva cassa, voleva soldi. Sì. A un certo punto io ci penso su, metto giù il telefono, ci penso su, dico beh. Questa cifra posso anche, ben sapendo di non poterla più riavere, Quanto era? 15.000 euro. 15.000 euro? Cioè, gli ha dato 15.000 euro cash, così? Sì. Sapendo non avrebbe mai ripresi? Certo, perché sapevo, io vedevo un uomo bravo, efficiente nel suo lavoro, cioè pensavo che li meritasse. A un certo punto gli do questi, e faccio un bonifico. Tutto... Mi stanno chiedendo il suo numero di telefono. No, dei colleghi insospettabili hanno detto fatti dare il numero. Signora, sì, 15.000 sì. euro non è proprio uno scherzo. Lo Vabbè. So, però... Però era molto innamorata. Questa passione mi aveva un po' ringiovanito, sono vivo molto. Sì, ma con 15.000 euro si faceva un viaggio in paesi caldi del sud, altro che il vecchietto. Ecco. Comunque a un certo punto faccio questo bonifico, tutto felice, mi WhatsApp. Era più lui felice. Sei una mia salvatrice della patria, di tutto. Ma lui ha mai detto te li restituisco in prestito? No, ma io neanche glielo proponevo. Quindi era un regalo. Sì, ho fatto il conto che facevo un'opera buona. Come regalargli un orologio di lusso? A parte che i miei figli se la sudano il sudore, però ho fatto il conto sul mio piccolo patrimonio, cioè, questa cifra posso permettermela. È un regalo, va bene. È un regalo, gliel'ho fatto. Viva il disinteresse e la passione. Che uno... Sì, Beh, più che depressione, proprio mi ero un po' affezionata, poi avevo visto che lui nel lavoro veramente si adoperava. E poi anche, diciamo, anche quella cosa un po' brutale che dice lei, alla fine aveva avuto una qualità, perché sennò... Sì, però insomma... Vabbè, meglio di niente. Meglio della mia dignità, comunque lasciamo stare. Però tante volte, sai, di fronte alla passione uno la dignità la mette un po' da parte. Sì, magari, ma più che altro mi piaceva, e dava gusto. Vabbè. A un certo punto... lui è operato, viene operato, arriva su con tutta una ferita, vuole fare sesso, vabbè, così. Dov'era, diciamo, la ferita? In che luogo? No, qua è importante, anatomicamente dove era stato operato? Come? Dove era stato operato lui? È stato operato una vena, era stato tolto una vena. Una vena varicosa, ecco. Si viene su con tutta una gamba, così, vuole fare sesso lo stesso. Nonostante la safena vuole accoppiarsi. Sì. Prima di uscire, di andarsene, mi dice: guarda che ho una prima rata di Epitalia, oltre a quelli che gli avevo dato, però adesso devo continuare con le rate, aveva rateizzato. Ma era vero che si era operato o era una simulazione per farla impietosire? No, no, è stato operato veramente. E nonostante l'anestesia, l'operazione era ancora in grado di... Sì, beh, no, però ho capito perché... prima si di vede. Uscire mi dice: non è che hai 300 euro che ho la prima rata che mi scade. Vabbè, di fronte a 15.000 sono spiccioli. Sì, però a questo punto però io comincio un po' a arrabbiarmi, dico: ma scusa, no, guarda, allora gli dico: guarda, io te li do, però questi li rivoglio perché a questo punto, insomma, non esageriamo. Ma lui è già era facoltoso, ha un lavoro? No, lui lavora, ha un bel lavoro, però... ha due o tre divorzi alle spalle. Ah, deve mantenere tre mogli, beh, quello è giusto. Ferma lì, non si muova, siamo arrivati a 15.000 più 300 euro. Barbara, buongiorno. Barbara. Sente? Sì, la sento. Comincia a dare subito, comincia a dare dei consigli o dei commenti alla storia che stiamo raccontando. Che è in linea con quello che volevo dire io. Allora, il pippamentalismo delle donne lo sottoscrivo pienamente. Purtroppo, per fortuna, non soltanto nel tema dell'amore. Il problema dell'amore è che è uno stato mentale di confusione. Certo. E quindi... è uno stato patologico, ragione, chiaro. Esatto, è quasi patologico. Hanno anche misurato la durata da un anno e mezzo a tre anni, quando c'è l'innamoramento, eccetera. Quindi la ragione e il ragionare funziona fino a un certo punto. Quindi se io devo dare un consiglio alla signora Giovanna, e non so come sia finita, l'unica cosa che può venire in mente non è essere razionali, perché non ci si fa. Questo vale sia per le donne che per gli uomini, io sospetto, anche se poi gli uomini magari lo ammettono di meno. Ed è magari non rivoluzionare la propria vita. Sì, ma gli uomini si fanno rovinare, ma mai in nome dell'amore, della passione o dell'altruismo. No. Si fanno rovinare in nome della lussura, della cupidigia, del possesso, del desiderio. L'uomo è molto più rozzo in questo. L'uomo si fa turlupinare in maniera madornale. Però vede che in questo caso si presenta questo tutto fasciato, con la vena scoppiata, già gli ha preso 15.000 euro. Gli dà una botta veloce così e dice: dammene subito 300, ma anche da poveraccio, e lei generosamente glieli dà comunque, pur sapendo che comunque li butta via. Sì, vabbè, allora la signora Giovanna l' ha fatto perché è innamorata, e è innamorata, non si può giudicare una cosa del genere, perché è uno stato... No, ma noi non giudichiamo, mica giudichiamo, no? In questo alterato, momento... no, giudicare nel senso... No, io ho chiesto oggi, mi state rispondendo, ve ne sono grato, fatemi capire a me, se non vogliono capire gli ascoltatori maschi che dicono: faccio la missione femminista, peggio per loro, a me interessa. Ferma lì, Silvia, buongiorno, altra donna. Silvia. E questo è il cuore di Silvia emozionata. Mirella era quella di prima, quella che si era rotta la passera. Mirella? Sì. Oh, Mirella, aggiunga allora il suo commento. Ma rispetto... no, non posso, Nicoletti, non posso aggiungere, perché già... Cioè, ma scusa, uno ti chiede 15.000 euro e glieli dai. Vabbè, scusami. Sono innamorata, signora... No, ma sei una folla. Ma sei innamorata? Ma diciamogliele queste cose, non edulcoriamo la cosa. Ma un uomo ti chiede 15.000 euro e gli dai 15.000 euro. Ma io se fossi impazzito. Perché ti fa sentire donna, ma va a cagare. Vabbè, scusi, Mirella, va a cagare, scusi, lo tenga per il consesso alle sue amiche con cui si rompono le passere, però scusi. Perché non ha diritto dirlo a Giovanna, a me può dirmelo, mi scivola. No, vabbè, allora Giovanna, ti voglio bene. No, vabbè, scusi, è una persona che è... L'ha detto consapevolmente, sì, che è una persona. Non faccia la cattiva a tutti i costi. Non ma esce. Ma scusa, ma edulcorando tutti. Ma cioè, un uomo ti chiede 15.000 euro e tu le dai 15.000 euro perché ti scopre, perché ti fa sentire viva. Ma prenditi un gigolò, ti costa meno. Questo è un consiglio pratico, certo. Questo, anch'io l'ho detto, signora, si faceva un bel viaggio in paesi caldi, sarà soltanto per questo, però... Io ci metto la scusante dell'essere innamorata, però. Ma qual è la innamora? Ma lì non c'è nessun amore, Nicoletti. Ma come fa a dirlo lei? Come fa a ragionare a casa d'altri? Che ne sa lei? Non lo so. Ma questo è amore? Non lo so, che ne so io dell'amore? Questo è amore? Non lo so. Giovanna, era amore? È lì. Beh, era anche amore, difatti ho molto sofferto. Comunque dopo quei 300 ma euro... Ma scusami, ma ti hai detto che non ti piaceva? Che era rozza e volgare. Sì, però... E allora? No, vabbè, però per 15.000 euro glielo dati di no, mia parlate volontà. Fra di voi, così è come se ascoltassi al buco della serratura due donne che parlano d'amore, non ho mai sentito, quando fra di loro si ragionano. Dica io, pure Mirella, come direbbe una sua amica Giovanna. Io volevo consigli. Aiutarlo, perché... Ma tu dovevi aiutare te stessa, non devi aiutare gli altri, Giovanna, io ti voglio bene, ti voglio profondamente bene. Ma nessuno me lo dice, dopo che è morto mio marito, nessuno me l'ha detto. Anche questo è tu devi volerti bene profondamente, amarti profondamente, perché tu sei aspetta la fine della storia, se no sembra un programma Maria De Filippi, se sto lì seduto, non funziona così, non va esattamente in questo modo. 47, devo dare la linea, ecco, mi fermiamo un attimo, prendete respiro, non funziona, lasciare le donne da sole scoppia immediatamente il gallinaio, non so che faccio, purtroppo è così, fermiamoci un attimo. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. Vi presento Melog, cronache meridiane. Come fare per dimenticare un amore sbagliato? Intanto devi renderti conto di una cosa, che se la persona che ti interessa, diciamo, della quale sei innamorata, ti sfugge, si nega, non ti tratta bene, non ti dà gratificazioni, devi renderti conto che sicuramente stai idealizzando e stai proiettando delle cose inesistenti. Ecco, questo è l'eroe, il balsamo per tutte le ferite amorose, il professor Massimo Taramasco, così si chiama. Massimo Taramasco ha una risposta per ogni donna. C'ha dei tutorial interessantissimi che spiegano nei particolari come comportarsi in queste vicende. Cosa che io non sono capace da fare, ho dovuto interrompere il dibattito tra donne, lasciate a se stesse. Una fa la cinica, la cattiva, quella che ha capito tutto del mondo, dice parolacce, la donna che ormai ha fatto 6 salti mortali. E l'altra che è una donna che ha avuto una storia d'amore. Sì, è stata una debolezza, è chiaro che è una sciocchezza dare 15.000 euro a una persona così. Però se glieli vuol dare sono i suoi, l'avesse fatto un uomo per una ragazzina, tutti pronti a darsi di gomito, sì, però ammazzala che si è fatta una ragazzetta, una ventenne, lui che c'è. E lei gli piaceva quest'uomo, si è sentita di farlo, era consapevole. Giovanna, vada avanti con la sua storia. Consapevolissima. Consapevole, quindi non è che è stata turlupinata o plagiata. Dice, no. Voglio dare 15.000 euro a quest'uomo, la mia gratitudine per avermi fatto risentire donna. Mi sembrava che lui li meritasse. Certo, ma sarà libera di fare con i suoi soldi quello che vuole, scusi. Certo. Allora, andiamo avanti. Punto, però, andiamo avanti. Dopo questo ultimo incontro gli fa una telefonata e gli dico: guarda, non mi sento più di avere rapporti con te, però rimaniamo amici, visto anche il vincolo vero denaroso che ci lega, restiamo amici, io posso aver bisogno per mio figlio di una tua consulenza, restiamo amici. E lui, e a questo punto lui mi risponde: sì, forse è meglio, perché io non ho poco tempo, io mi aspettavo di dire, ma come mai, non perché, no. E invece lui, buono buono, mi dice, non ho tanto tempo, chiusa la storia. A questo punto io lascio stare. Beh, quello che lei voleva, alla fine voleva anche lei liberarsene, no, da questa persona? No, non volevo più avere rapporti sessuali, soprattutto, perché non mi andavano, ledevano la mia dignità. Va bene, questa è la scelta giusta, se sarà stufata non gli andava più. Io mi sentivo, la mia dignità era lesa. Quindi lei, Giovanna, può essere che con questi 15.000 euro alla fine gli ha dato una sorta di liquidazione, di buona uscita, ci ti pago, no, basta. No, credevo che l'amicizia continuasse, che restassimo amici, che potessi contare su di lui. Che... Cioè lei bastava anche un amico? Sì, mi bastava un amico perché francamente non volevo più sottostare alle sue esigenze sessuali, io, a me non andavano. Ah, vabbè, questo è lecito, scusi, mi sembra logico. E allora lui non sta però, dice sì, forse non ho tempo perché sono molto occupato. Da quel momento, quando io provo a telefonargli, perché dovrei avere ancora bisogno di lui, si nega il telefono, mi butta giù il telefono. Cioè se nemmeno nella zona dell'amicizia, non ne vuol più sapere. Niente, a questo punto mi sono veramente, guardi, però ho posso avuto dire, una delusione Giovanna, tremenda. Le donne, dico da uomo, in realtà quest'uomo le butta giù il telefono, per timore lei gli chieda indietro i soldi, questo è il suo vero cruccio secondo me, da questo punto di vista, non lo so. Ma io non gliel'ho mai chiesti. Vabbè, dice, tante volte ci ha ripensato, c'è sempre una pendenza notevole, capito? No, dovrebbe vergognarsi. Dovrebbe venire rosso ogni volta che sente la mia telefonata. Ma secondo me chi si muove così non è che poi ha il senso della vergogna, sennò... Allora mi ha detto l'ultima volta che ho avuto modo di sentirlo, guarda che mi sono trovata un'altra signora che forse è fortunatamente non ha figli. E quindi può portargli via tutti i soldi tranquillamente senza... Ecco, perché io avevo due figli, non devo rendergli conto, però giustamente io mi facevo scrupolo. Quanti anni aveva quest'uomo? Una sessantina, ha detto? Sì, una sessantina. No, a me lo sa della sua storia, cosa trovo per me una scoperta edificante. Di solito questi turlupinatori di donne, questi belami, questi profittatori di donne, sono uomini molto giovani, molto spregiudicati. Questo è un signore tranquillo che deve tristemente lui ha bisogno pagare, di soldi. Certo, pagare due ex mogli che gli staranno lì assatanate ai fianchi, giustamente, perché se tanto mi dà tanto avranno fatto delle vite impossibili. Ho tre mogli ha detto, ecco. E due figli che non possono vederlo, vederlo. No, ma che a 60 anni no, metta a profitto la sua virilità per farsi pagare dalle donne e estirpare soldi alle donne che vanno con lui per amore, per riscoperta passione. È un fenomeno interessante da osservare. Non stiamo parlando di un palestrato ventenne che mette l'annuncio. È un sessantenne. Era bello lui, fisicamente com'era? Era abbastanza bello. Però era sempre un sessantenne. A 60 anni, sì, possiamo sì, essere buoni. Però era prestante, faceva biciclette, faceva sport. Cioè, non era un, però... un gigolò attempato. Ferma lì, Giovanna. Raffaella. Eccomi. Raffaella, sentiamo. Ma io, insomma, a parte che esprimo la mia solidarietà per la signora lì dei 15.000 euro, però volevo dire questo, secondo me non è tanto vero che sono le donne che si fanno queste, come avete detto, queste pippe mentali. Il pippa mentalismo amoroso, beh, ecco, è tipicamente bravo, femminile, però. È bellissima questa frase, perché io da quello che vedo sono anni di studio per mettere a punto, il pippamentalismo amoroso è una caratteristica molto femminile, l'uomo se ne fa altri 100.000, no, ma su altri piani. Però per quello che riguarda l'innamoramento, la fase di questa fase che l'uomo, di cui ha bisogno, no? Ha bisogno di questa fase così in cui tutto se stesso deve essere orientato verso questa donna che deve conquistare, quest'amore in quel momento tutto pieno di bellezza, di cose passionali, poi finisce. Invece la donna non è così, la donna è più una amazzone dell'amore, la donna l'amore lo sa cavalcare, ci sa convivere giorno per giorno, e non vedo che mi conforta proprio... questa notizia, vorrei sempre averne trovate di amazzoni capaci di avere questo approccio con l'amore. Sì, la donna sa vivere più del giorno per giorno, l'amore lo sa cavalcare, ecco, mi viene questo termine che chissà forse perché. Non è proprio. No, è proprio, però... più proprio che così, rende l'idea, per figuras rende l'idea. Mi sembra che invece l'uomo a un certo punto ci abbia questo picco, poi questo picco boom, scende, cala, all'improvviso ha bisogno di un nuovo stimolo romantico, amoroso. Lo so, è il limite dell'uomo, che in realtà l'uomo... La monogamia è talmente acquisita per cultura che a me scalpia dentro di lui sempre, ahimè, lo spirito del predatore, anche se è un vecchietto sessantenne, come me d'altronde, come quel signore, che usa i suoi barlumi ancora di virilità residua per estirpare soldi alle povere vedove sentimentali. Grazie Giovanna, grazie a tutti, a lunedì.